got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Benvenuti da Valentina Furlanetto ancora una volta. Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che vi parla dell'Italia che cambia grazie anche alla presenza di italiani di origine straniera. E questa sera parliamo di teatro, perché è in scena a Milano al Teatro Verdi ancora fino a domani, questa sera e domani, un'opera, Arlecchino, traduttore e traditore di due padroni, di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi, che è con noi. Benvenuto. Ciao. Grazie, ciao Valentina. Questo invito a Radio 24 è sempre un invito a cena, prendendo ispirazione dal famoso film degli anni 60 sull'integrazione. Certo. Ci hai portato un piatto della tua tradizione? I Ferrero Rocher. Scherzo, però un po' sì, nel senso che due piatti, i ravioli erano quelli che faceva mia nonna, con ripieno di carote e di carne di capra, buonissimi. E però i Ferrero Rocher sono un simbolo di ricchezza, per cui tanti emigrati vengono in Italia e poi portano in Cina ai loro cari. E io ho in scena un Ferrero Rocher gigante. E raccontaci un po' che cos'è quest'opera, perché va in scena in questi giorni. Perché ieri, il 1° dicembre, è stato l'anniversario, dopo 4 anni, della morte dei 7 operai cinesi a Prato. Evento caduto appunto nel 2013, fu una tragedia che scosse l'opinione pubblica, e questo mio spettacolo deriva da un progetto che è durato 7 anni a Prato, di teatro indipendente del gruppo Compost. Insieme a Cristina e tanti altri artisti abbiamo studiato i conflitti della contemporaneità italiana e abbiamo toccato un nervo scoperto, che è quello della possibile o impossibile convivenza a Prato tra la comunità cinese e italiana, nei fatti economiche anche, non solo identitarie, delle seconde generazioni a cui è dedicato questo spettacolo. Tu sei arrivato in Italia esattamente quando e come? Da clandestino con mia madre da Francoforte, regolare fino a Francoforte del Pechino, nel marzo 90, però mi chiesero di memorizzare la data del giugno 89 per entrare nella sanatoria della legge Martelli, quindi confusione totale. Più considera, Caravale, che i cinesi quando nascono in teoria hanno già un anno, no? Perché considerano i 9 mesi di gestazione come primo anno. E quindi io, quando sono arrivato all'inizio della confusione, io avevo 11 anni e quindi la prima cosa stazione centrale, e poi mi fecero fare subito la scuola italiana. Mi bocciarono dopo 3 mesi, Valentina. Io ero primo della scuola, avevo il mio cravatino rosso, ero il portabandiera, invece qua sono diventato un somaro perché non parlavo italiano e imparai subito le regole italiane della trasgressione. Tu avevi 11 anni, quindi eri molto piccolo, non conoscevi la nostra lingua. Assolutamente, in Cina guardavo Dynasty con mia madre una volta a settimana, e quindi l'Italia era assolutamente Italia sconosciuto, al massimo era un po' Auto Europa, e questa idea della soap Dynasty come un posto dove andare. Noi non siamo una famiglia tipica del Wenzhou. La maggior parte dei cinesi che sono immigrati per ragioni storiche qui in Europa arrivano da Wenzhou, anzi vengono dalle zone rurali, da Yuhu, da Wenchang, da Qingtian, quindi è come se fosse dalla Brianza, ma non così ricca, dalla zona rurale vicino alla città, e noi invece veniamo dal nord. È come se fossimo, che ne so, veniamo dall'Umbria anziché essere i veneti immigrati in Canada o nelle miniere di Berlino. E come mai quindi siete venuti in Italia, tu e tua madre? Per libertà. Quello che cita Marianella Sclavi, sempre il mio antropologo che mi ha fatto la presentazione durante Book City, sono un caso di immigrato che si muove insieme alla sua famiglia, perché io ero bambino e le scelte sono i miei, a cercare libertà. Non che i miei fossero dei dissidenti politici, no, loro cercavano più ricchezza, più libertà, più spazio, ed erano tra i privilegiati, perché all'inizio degli anni 90 solo i privilegiati potevano venire. Madre medico, padre manager, si sono trovati a fare vucomprà lui e lei donna delle pulizie. E dicevi, siete arrivati da clandestini, dalla Germania. Il pezzo della Germania in Francoforte, Milano, sì, comodamente, con il passaporto giapponese, grazie a un traghettatore. Comunque non è stato così drammatica l'esperienza, quindi siamo trovati in Italia. Traghettatore, che poi vuol dire un passeur, un trafficante, certo, d'uomini, certo, una persona che voi avete pagato per arrivare. Noi no, la famiglia, il mio padre in qualche modo in quel momento sì, e tutto questo, comunque eravamo tra i privilegiati, andavamo sì alle 2 di notte a fare la fila davanti alla stazione di Milano, no? Ma ci siamo arrivati in taxi in quella questura. Io, rispetto a tanti immigrati che hanno superato ben di peggio, sono un privilegiato, sono stato un privilegiato e sono tuttora, sono un traduttore simultaneista. Questa esperienza di teatro indipendente me lo posso permettere perché guadagno bene come interprete e quindi posso non guadagnare nulla e spendere soldi per produrre questo tipo di esperienza. Hai fatto però molte altre cose anche, certo. Ricordavi che i tuoi genitori si sono dovuti adeguare, tu stesso sì. Ti sei adeguato, dimmi un po' che lavori hai fatto. Tutto di più. Lavo piatti a 12 anni e a 3 mesi a Ciro Marina in Calabria, fingendo di ne averne 16. Poi subito sono diventato, tornato ad essere il più bravo della classe, e ho cominciato a tradurre a 14 anni per la Menegatti, e ho cominciato a tradurre, che facevo ancora le superiori, tecnico Pietro Verri, come interprete simultaneista al Festival di Venezia, perché sognavo di diventare l'attore, no? Quindi dalla spiaggia mio padre, leggendo un giornale, dice: guarda, c'è una nostra compaesana, niente di meno che la Gong Li, attrice di Lanterne Rosse, vai a vedere. Io, con la raccomandazione del professore della Bocconi, che poi piano piano andrò a fare perché mi sono iscritto all'università, sono finito da bocconiano Vucumpra al Festival di Venezia a fare l'interprete. Il primo film era Frida e poi tanti altri lavori, però i lavori veramente quelli più pesanti, più umili, li ho fatti quando ero adolescente, quindi 7 anni Vucumpra sulla spiaggia a Villa Marina, frazione di Cesenatico, e poi scappando dai vigili, una volta mi hanno preso pure, mi sono dichiarato clandestino pur di non compromettere la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno a mio padre, e tutto contraddittorio, perché in quegli anni poi papà e io e mia madre pagavamo per un lavoro fittizio per pur di ottenere il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare a mio padre, perché l'Italia, come la Cina, ha dei buchi nel suo sistema legale e rispetto delle regole. Da italiano ti testimono che l'Italia dei furbetti esiste qua come la Cina dei furbetti esiste là, e quindi non a caso siamo due culture millenarie con tanto simile sia nei pregi che nei difetti. La cucina cinese è legata alla filosofia e alla medicina. Distingue gli alimenti yin, femminili, umidi e teneri, dunque rinfrescanti, come i legumi e i frutti, e gli alimenti yang, maschili, fritti, speziati o a base di carne. Un pasto deve dunque non soltanto armonizzare i gusti, ma trovare un equilibrio tra il freddo e il caldo. Un'altra caratteristica della cucina tradizionale cinese è l'assenza di prodotti lattieri, a causa di un'intolleranza al lattosio che esiste in numerosi paesi asiatici. La successione cronologica dei piatti che si conosce in Italia e negli altri paesi occidentali, nella cucina cinese è sostituita da una ricerca di equilibrio, a partire dai 5 sapori di base: dolce, salato, acido, amaro, piccante. Non si può parlare di una cucina cinese, ma di 4 tradizioni culinarie molto diverse. La cucina settentrionale o pechinese, che si caratterizza per il largo uso di pasta, ravioli e tagliatelle. È una cucina non grassa che fa largo uso di manzo e agnello. La cucina del nord è famosa anche per l'anatra laccata, piatto molto complesso e raffinato. I piatti meridionali o cantonesi sono quelli che più si avvicinano a quelli proposti dai ristoranti cinesi nostrani. I piatti tipici sono il pollo al limone e il riso alla cantonese. Questa cucina fa largo uso di ortaggi e di riso e della cottura in olio bollente in modo da rendere croccanti i cibi. La cucina cinese orientale o di Shanghai è caratterizzata dalla grande presenza dell'acqua con frutti di mare e crostacei, ma anche carpe e altre varietà di pesce. Qui la cottura è più lenta rispetto al resto del paese, con largo uso dei bolliti, degli stufati e dei brasati. La cucina occidentale, o del Sichuan, è quella che più si avvicina alla cultura indiana e del Centro Asia in genere. I piatti sono più speziati e piccanti, con largo uso del peperoncino e del pepe. Uno dei piatti caratteristici è il Mapo Tofu, del tofu piccante. Il tè è la bevanda più bevuta. È consumato per le sue virtù digestive e decongestionanti. La birra e l'alcol di riso sono piuttosto bevande per le feste, riservate ai grandi eventi. Durante un pasto ordinario a casa propria, in generale non è proposta alcuna bevanda. Ci si disseta con una zuppa. Il principale farinaceo di accompagnamento nella Cina del Sud è il riso cotto al vapore senza condimento, mentre nella Cina del Nord sono le paste, le crespelle o i pani al vapore a base di farina di grano. Per i cinesi più poveri, un pasto si riassume in un piatto di pasta o di riso, ravvivata da qualche verdura o boccone di carne. Ma in occasione delle feste o quando si ricevono ospiti, ognuno si sforza nei limiti dei suoi mezzi di dare sfoggio di abbondanza. Assai spesso il cibo è una questione d'onore e senza dubbio il primo segno di appartenenza sociale. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo con Shi Yang Shi, in scena in questi giorni, e potete andare a vederlo ancora oggi e domani al Teatro Verdi a Milano, questa opera teatrale Arlecchino, traduttore e traditore di due padroni. Tu sei anche l'autore di un libro, Cuore di seta, la mia storia italiana made in China, edito da Mondadori, dove racconti proprio questo viaggio che ci hai in parte raccontato, la tua infanzia spensierata e la tua nuova vita in Italia. Sì. Poi tu sei diventato cittadino italiano. Nel 2006, e rispetto al tema degli ius soli, penso che è vero che adesso non mi riguarda più direttamente, ma indirettamente assolutamente sono per quei ius soli, ma dico da artista e non da politicante che ius culture è quello che tutti deve garantire, se c'è qualche ragazzo marocchino, filippino, cinese che ci ascolta, perché ius culture vuol dire che tu hai scelto la tua doppia identità, nessuno te la può togliere. Se ti senti diverso non importa, basta che non ti accoltelli idealmente dentro perché sei diverso agli occhi degli altri. Io posso essere diventato italiano e non vergognarmi perché qualche cinese mi dice sei banana, giallo fuori, bianco dentro, oppure sono talmente cinese che lo sono nonostante il passaporto italiano, e non essere non offendermi perché qualcuno mi dice cinesino. La prima parte dello spettacolo ripercorre la storia anche dei tuoi antenati, no? Assolutamente, tutti che io non conoscevo o non conoscevo così bene. La prima parte è frutto di un'indagine rispetto alla domanda dell'antropolaroida: da dove vieni? Chi sei, dove vai? Rispetto a proprio la prima domanda, da dove vieni, sono andato a indagare nella mia famiglia d'origine e ho scoperto per esempio che la mia trisavola aveva contribuito a rendere spaghetti bocca di drago, long offense, come i Barilla, perché viene da quella zona lì. Poi il mio bisnonno era un martire ed era un comunista convinto che a un anno meno di me, a 37 anni, si è fatto ammazzare dai giapponesi, ha contribuito a fondare il giornale quotidiano del popolo. Dall'altra parte però la sua prima moglie, la mia bisnonna paterna, per il fatto che ha fatto solo 6 figli non è stata considerata neanche veramente moglie, e a quella donna, come a tantissime donne, fin da piccole gli hanno praticato la tortura di spezzare piedino, farlo diventare piedino, insomma, sposabile, perché allora c'era questo costume ed era un valore per la madre praticarlo a figlia, per la figlia accettare quella cosa. O piuttosto altre storie, come quella più rappresentativa del conflitto tra mio nonno materno e mio padre. Mio nonno materno ha studiato con gli americani, era comunista negli anni 20-30 come chirurgo e non ha lasciato la Cina. Invece è stato oggetto di torture da parte dei fanatici delle Guardie Rosse. Invece mio padre, dall'altra parte della barricata, è stato una guardia rossa. Non ha torturato, non ha ammazzato nessuno, ma ho scoperto che lui ha comunque schiaffeggiato un funzionario, un capo, perché per le sue idee di uguaglianza dei popoli, tra l'altro, no? Quindi io non lo giudico, e poi ha umiliato un suo professore in un modo molto particolare. E questo tipo di conflitto che sta nella mia DNA, diciamo, cinese, della storia cinese, va a fare da contrapeso a quello che è successo a Prato, e quindi in questa Italia di oggi, che vivo oggi, dove tante diversità non vengono comunque elaborate, accettate e diventate così, come un concime, no? Per un motore nuovo. Invece c'è l'esclusione, ci sono quelli che, forti dell'ignoranza, dicono tu non hai diritto di esistere perché sei mio nemico. L'hai ricordato tu, ricordiamolo anche noi, questo tragico episodio del 1° dicembre 2013, insomma sono 4 anni ieri, giorno in cui a Prato 7 operai morirono in un incendio scoppiato all'interno della fabbrica. Il 26 agosto sono morti altri 2 operai. Il 26 agosto di quest'anno. E sono i cinesi poveri del nord questa volta. Ecco, tu hai una connessione fortissima con Prato e lì hai lavorato molto con Cristina Pezzoli e con gli studenti anche di Prato. Questo evento del 2013, il primo incendio, che colpì moltissimo anche la comunità italiana, è un evento secondo te isolato? Sono cambiate le cose a Prato? Guarda, è da un anno che il nostro spazio ha chiuso. Dico la mia da artista, se sono morte altre 2 persone, se le dinamiche che posso osservare anche da lontano non mi sembrano profondamente cambiate, purtroppo stiamo assistendo a un paese, sistema paese o sistema provincia, che non è capace di far emergere meglio, ma continua a tapparsi le orecchie sul peggio che ogni tanto, come punta di iceberg, esplode. Quella che è la mia speranza sono i giovani, sì, ma è un'alleanza trasversale e transgenerazionale. Cioè, se noi cinesi, per esempio, cresciuti in Italia, non abbiamo dei zii italiani o dei nonni italiani che anche al bar, anche acquisiti, ti raccontano un pezzo di storia italiana, noi siamo galleggianti, noi siamo senza radici. E allora io spero profondamente che la comunità pratese, come tante altre province d'Italia, possano elaborare un pensiero di partecipazione e di acculturazione gli uni verso gli altri, ma non sono purtroppo così ottimista di quello che sto assistendo, altrimenti non farei uno spettacolo ancora tragicomico, no? Farei uno spettacolo celebrativo dei successi, ma non ci sono. Talvolta si dice che la comunità cinese è molto chiusa, sono grandi lavoratori, saranno anche cliché, ma corrispondono abbastanza alla verità, e talvolta si accusa anche la comunità cinese di autorelegarsi. Pensi che ci sia del vero? Penso che possa esserci stato del vero, però oggi se guardi i tentativi di uscire anche, per esempio il progetto Facewall che c'è stato per 2 o 3 anni a Prato, è nato con soldi da imprenditori cinesi che hanno finanziato la materia di 10.000 bandiere, fatto con 100 fotografie. Erano bandiere dei ragazzi, no? Cinesi, no, non solo di Prato. Ragazzi, anche anziani, cioè delle coppie, di un italiano e un qualcun altro, no? Cinese o no, che lavorano, fanno l'amore, sport, cose di tutti i giorni che non fa notizia. E questo progetto è stato all'inizio finanziato da imprenditori cinesi che credono nella restituzione verso la società italiana, perché l'hanno scelta come un luogo dove fare figli. E oggi, sì, di questa terribile tragedia a Prato è stata ricordata questa tragedia? Secondo me c'è una tendenza a non ricordare. Ahimè, il mio lavoro di artista fa della memoria un pilastro, perché non si ripetano delle tragedie. Io rompo anche un po' le scatole a ricordare ciò che qualcuno vorrebbe rimuovere, no? Quello che non c'è, secondo me, è una progettualità profonda e sistemica per creare integrazione a partire da una constatazione di ciò che c'è, della falsa coscienza che c'è e dei sistemi di collusione che ci sono in vari settori. E questo purtroppo è una guerra un po' Davide e Golia che sto facendo, ma io faccio il mio, limito a elaborare i pezzi d'identità e sono già felice per questo, non aspiro ad altro. Le aspirazioni degli immigrati cinesi in Italia sono cambiate? Ma guarda, secondo me c'è un qualcosa di globale che sta avvenendo, dei fenomeni grandi. L'immigrazione e i rifugiati, io ho visto il film The Human Flow di Ai Weiwei a Venezia, al festival, è qualcosa di immenso. Però tutto questo è legato a un fenomeno di globalizzazione, non ho delle ricette o delle risposte precise, ma penso a quei ragazzi che non hanno strumenti, che non vogliono, che abbandonano la scuola, cioè di progetti di inclusione sociale e di partecipazione che li faccia riconnettere alle fatiche dei loro genitori. Perché è normale che se un ragazzo non voglia fare la vita dei suoi genitori e che aspira a qualcos'altro che vede magari più effimero, legato a un successo facile, no? Però